Signori, voi mi costringete a dire quello che io non voglio dire, che la terra è un punto fermo e che il sole le gira attorno. Signori, voi mi costringete a fare un torto infame alla scienza e a seppellire ritrattando la mia vita e la mia coscienza. Anni con gli occhi fissi a un telescopio ad osservare angoli di cielo per dimostrare a tutti che Copernico aveva sempre detto il vero. Ed ora voi mi giudicate un pazzo, dubbie eminenze dell'Inquisizione, ma io Galileo vi ho già provato il fatto e ora anche voi sapete bene che gira, gira, gira la terra, gira, gira, gira con il suo moto eterno intorno al sole che sta fermo. E gira, gira, gira insieme ad altri 8 pianeti, si vede bene anche da Pisa che gira così. In questi tempi non si può accettare una teoria senza spiegazione. Anche Aristotele si piegherebbe ai frutti della sperimentazione. Per me soltanto l'esperienza è cosa vera e sacrosanta. Tappate pure la mia bocca, la scienza l'avrà comunque vinta. E allora gira, gira, gira la terra, gira, gira, gira, gira con il suo moto eterno intorno al sole che sta fermo. E gira, gira, gira insieme ad altri 8 pianeti, si vede bene anche da Pisa che gira così. Ora ad Arcetri voi mi confinate insieme al buio fitto dei miei occhi, ma ciò che ho detto resterò fedele, bruciate tutti i miei scarabocchi. Tanto un giorno non molto lontano la verità verrà di certo a galla, che Galileo aveva urlato invano: noi camminiamo tutti su una palla che gira, gira, gira. Così si vede bene anche da Pisa che gira così, si vede bene anche da Pisa che gira così.